Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Oggi parliamo dei più piccoli. Perché non insegnare ai bambini della scuola dell'infanzia una lingua straniera o la matematica come avviene già in altri paesi? Se lo chiede in un articolo uscito di recente sul quotidiano Il Giornale, Giorgio Israel, chiamato insieme ad altri dal Ministero della Pubblica Istruzione a ridisegnare i programmi per la scuola dei più piccoli. Sì, è un errore complessivo, cioè riguarda sia la lingua straniera come il resto, il calcolo mentale, la matematica, perché bisogna guardare all'impianto complessivo che da molti anni ormai ha la scuola dell'infanzia insieme alla scuola primaria, e cioè un arretramento degli obiettivi di formazione impressionante, per cui alle scuole dell'infanzia non si deve contare, i numeri non vanno neanche guardati, non si deve essenzialmente appunto giocare, alle primarie le tabelline si devono apprendere solo entro la terza elementare, l'inglese si studia male, malissimo, in un modo poco intensivo, quindi questo è il problema. Io ho detto che appunto una lingua si apprende facilmente, presto e bene, in tenera età, addirittura 3 anni, anche persino 2 e mezzo, 3, si apprende facilmente. Insomma, prima si comincia meglio è, non ma c'è un'età. Allora ci vorrebbe, non in un modo oppressivo, per carità, ma insomma degli insegnanti di inglese oppure comunque delle maestre preparate a farlo, che anche nell'ambito del gioco, insomma, delle filastrocche, le canzoncine, quel che si vuole, li abituino a essere bilingui presto. Ecco. E io questo lo estendo anche al discorso della matematica, perché è inutile dire che siamo arretrati, che poi vanno male i sondaggi Ocse Pisa o cose del genere, se lo studio, se addirittura è un tabù a 4 o addirittura 5 anni imparare a contare. Insomma, i bambini possono imparare a contare a 2 anni, altro che. Ecco, però qualcosa si sta muovendo, perché comunque allo studio l'introduzione della lingua straniera in maniera un po' più organica, anche fra i più piccoli. Beh, insomma, è un'istanza che sta venendo fuori. Io faccio parte di una commissione ministeriale che ha fatto le nuove indicazioni nazionali per i licei, dovremo affrontare anche le nuove indicazioni nazionali per tutto il primo ciclo, cioè dalla scuola d'infanzia, primaria e poi le medie, mi auguro. Dovrete o dovreste? No, lo faremo, cioè abbiamo questo incarico da parte del ministro per fare questo, quindi se non succede nulla di, non so, insomma, è il compito che abbiamo, quindi entro un numero ragionevole di mesi questo dovrebbe essere fatto, per cui potremmo anche avere finalmente, dopo tanti anni, delle indicazioni nazionali coerenti su tutto l'arco scolastico, dalla scuola dell'infanzia ai licei, che riqualifichi l'insegnamento. E ripeto, io ritengo che sia fondamentale partire dal basso, cioè il punto cruciale è la prima infanzia. Bambini della scuola dell'infanzia troppo poco stimolati, dunque, non la pensa così Noemi Ranieri, che per la UIL Scuola si occupa proprio di scuola dell'infanzia. No, assolutamente non è vero. Assolutamente non è vero questo tipo di interpretazione. È vera un'interpretazione completamente diversa che ci dice che esperienze anche a livello internazionale nelle quali l'accesso alla scuola primaria obbligatorio, ritardato, generalmente all'età di 7 anni, è probabilmente una delle cause per le quali, ad esempio, i paesi del nord Europa, a partire dalla Svezia, dalla Norvegia, eccetera, vengono collocati poi a livello di apprendimenti successivi nelle sfere più alte delle indagini OCSE, ad esempio. Questo che cosa ci porta a pensare? Che probabilmente dei tempi e degli approcci pedagogici più rispettosi dei tempi di sviluppo dei bambini in età prescolare paga poi in termini di apprendimenti successivi. E con questo non dico che in realtà degli interventi di maggiore qualificazione dell'offerta formativa, e poiché i bambini in quell'età sono come posso dire, come spugne che tutto rielaborano e acquisiscono in maniera molto più facilitata, non si possa ad esempio, come è stato tentato alcuni anni fa, quindi per l'apprendimento precoce della lingua inglese o l'avviamento all'apprendimento della lingua inglese o anche per l'apprendimento della matematica. Ricordiamo, però bisogna ricordare che già gli orientamenti del 91 e le rielaborazioni che sono state ad esempio avanzate nelle indicazioni per il curricolo prevedono al loro interno degli spazi di approfondimento, per esempio per l'apprendimento o l'avvio all'apprendimento della matematica attraverso i campi di esperienze. C'è specificamente il campo di esperienza, lo spazio, le misure, lo spazio e la misura, ad esempio, che riguarda proprio un approccio all'apprendimento della matematica, naturalmente nelle forme. Quindi bisogna fare il lavoro propedeutico, però matematica vera e propria no, perché è troppo presto, e lo stesso per l'inglese, perché l'inglese, insomma, almeno la lingua prima si comincia meglio è. Certo, infatti, quindi assolutamente sì che ben vengano delle condizioni, degli strumenti, dei metodi che possano favorire questi apprendimenti. Il problema è che naturalmente in questo senso poi mancano le risorse, perché allora bisognerà formare degli insegnanti capaci di dare questo tipo di insegnamento, ad esempio. Fatto in maniera diffusa e generalizzata, naturalmente comporta dei piani di investimento, una formazione adeguata degli insegnanti, eccetera, eccetera, che al momento vediamo e reputiamo abbastanza difficile in termini di investimento in questo senso. E mentre gli investimenti pubblici sulle scuole dell'infanzia latitano, i privati si organizzano. Oltre alle scuole straniere, che ci sono sempre state, stanno nascendo scuole che puntano proprio sull'inglese. A settembre aprirà i battenti nella zona sud di Milano la prima scuola Montessori bilingue. Ce ne parla la dirigente scolastica Genia Namani. Nella nostra scuola, prima di tutto, verrà applicato il metodo Montessori, che è un metodo educativo che già esiste in altre scuole, che tra l'altro ha avuto molto più successo all'estero che in Italia, abbinato con il bilinguismo italiano-inglese, che è una novità assoluta, diciamo, per Milano, ma si può anche dire per l'Italia. Ci sarà la maestra, per esempio nella scuola materna che nasce a settembre, ci sarà una maestra in ogni classe, una maestra che di lingua italiana e una maestra di lingua inglese, per cui i bambini comunicheranno con ogni maestra nella propria lingua, associeranno ogni lingua alla persona che la usa, per cui saranno immersi praticamente nel contesto e non gli verrà insegnata la lingua, ma verrà utilizzata proprio in modo naturale. E perché abbinarla al metodo Montessori? Perché prima di tutto io credo che il metodo Montessori è, per quello che io ho visto per la mia esperienza finora, è proprio un metodo, il miglior metodo per imparare, secondo me. E l'aspetto personalizzato del metodo, l'aspetto cioè del rispetto di ogni individuo, secondo me si presta ancora meglio all'applicazione del bilinguismo. Per esempio, non so, avremo bambini anche stranieri, per cui il bambino inglese che non sa l'italiano può più facilmente essere inserito in una classe dove c'è anche una maestra che lo capisce, e viceversa. Poi, siccome coabiteranno queste due lingue nello stesso ambiente, piano piano anche gli altri bambini li assorbono e li cominceranno a usarli, ecco. In chiusura vogliamo parlare di una collana nuova di Zecca, una collana delle edizioni paoline rivolte ai bambini dai 9 agli 11 anni. Si intitola Mi riguarda e la curatrice Daniela Palumbo ci spiega perché. Sì, e Mi riguarda è un contenitore di storie che affrontano delle tematiche sociali che sono anche molto forti, però con un linguaggio narrativo che sia adatto a bambini appunto di 9-10 anni, perché è a questa fascia di età che la collana appunto è destinata. Quindi, come dire, siamo un po' fuori dal mondo Disney, dalla realtà edulcorata. E la collana nasce perché? Nasce soprattutto con un desiderio, un'ambizione, se vogliamo, che si può sintetizzare in una parola, che è empatia. E di fatto ci piacerebbe che, leggendo le storie, il bambino lettore si mettesse nei panni dell'altro, piccolo come lui, però al contrario di lui ha solo diritti deboli. Questo noi sappiamo che è una goccia nel mare, però insomma ci piacerebbe pensare che possa essere un piccolo passo per coltivare la sensibilità nel bambino. Approfittando anche del fatto che a quest'età i bambini ancora leggono. Assolutamente sì, questo è ancora un buon periodo per la lettura, che va fino ai 12 anni circa, poi si comincia un pochino a declinare verso la lettura debole, purtroppo. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12:45.